Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16 e 34 minuti, Luca Tremolada al microfono, siamo in compagnia di Pierluigi Casolari, ho detto giusto, fondatore di CoinUp. Oggi parleremo di colonne sonore dei mondi virtuali, di film con i videogiochi e di film, di guerriglia film marketing. Giusto. Direi che ci siamo, in collegamento con Valentina Paggiarin, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quindi ci siamo tutti quanti, diamo le news. Lost Planet 2 è uscito oggi in Italia. Non solo ghiaccio e neve, ma anche deserti e foreste tropicali. Nel videogioco sparatutto per Xbox 360, che ci riporta sul pianeta EDN III. Tra le note positive, la modalità multiplayer e il dettaglio della personalizzazione. Sarà possibile portare sul campo di battaglia vecchie conoscenze del videogame come Marcus Fenix e Dominic Santiago di Gears of War o Frank West di Dead Rising. Più 1% in Italia per la pirateria software. Nel 2009 è salita al 49% del mercato per un controvalore commerciale di oltre 1,20 miliardi di euro. Lo rivela uno studio realizzato dalla società di ricerca IDC per conto di Business Software Alliance. Dalla ricerca emerge che, a dispetto della fase di recessione attraversata dall'economia a livello mondiale, la pirateria software nel 2009 si è ridotta in 54 mercati dei 111 analizzati ed è cresciuta solo in 19. Sorpresa Android. Secondo quanto ha rilevato la società di ricerche NPD Group, i telefonini intelligenti equipaggiati con sistema operativo Android hanno superato negli Stati Uniti gli iPhone. Nel primo trimestre 2010 Android ha raggiunto il 28% del mercato americano, al secondo posto iPhone di Apple con il 21%. In testa si confermano i cellulari BlackBerry con il 36%. Allora, proviamo ad andare con ordine, diamo un senso e un significato alle parole. Innanzitutto, che cos'è CoinUp? Tu sei il fondatore di questo social network di mondi virtuali, l'ho già detto io, ma tu lo dici sicuramente meglio. Ecco, allora, CoinUp è una community dedicata a tutta la creatività del virtuale. In pratica ho creato questo progetto nel 2007 insieme al mio socio Edoardo Turelli, e la nostra idea era quella di creare un aggregatore, un posto, un luogo dove tutte le persone legate che producevano creatività con i mondi virtuali, i videogiochi, il 3D, avessero appunto un loro luogo, una loro casa dove poter esprimere questa loro creatività. E il progetto è cresciuto, è diventato un sito piuttosto importante di riferimento per tutto questo mondo, questo filone di creatività. Allora, io ho messo su Nova Lab 24 il Twitter tutti i link per andare a vedere. Allora, quando si parla di creatività, in realtà si parla di immagini digitalizzate, di foto da questi mondi virtuali che non sono solo Second Life, lo possiamo dire? Assolutamente, si è parlato tantissimo di Second Life, che esiste, tuttora esiste, non è scomparso e lotta insieme a noi, ma esattamente, ma ce ne sono altri. Possiamo fare alcuni nomi, per esempio i Mivu, Blue Mars, Frenzo, Twinity, oppure sul filone invece dei multiplayer più classici, World of Warcraft, tanti altri. E tra l'altro tu mi hai raccontato anche che questi mondi hanno anche un suono, hanno anche delle colonne sonore. Hai portato in studio una di queste colonne sonore, sentiamola. Musicista, diciamo un musicista inglese indipendente, si chiama Dizzy Banjo, e sviluppa delle musiche, delle colonne sonore per ambientazioni virtuali, cioè lui esplora i mondi virtuali e poi, ispirato dal clima, dal mood, dalle sensazioni che trova in questi differenti mondi virtuali, per ciascuno crea dei suoni, delle sonorità. Ma quindi praticamente il gioco qual è? Il gioco che mentre gioco hai un videogame, o sono in un mondo virtuale o sono in un posto fatto di pixel digitale, sento queste canzoni, queste musiche, boh, sì. Esattamente, sì, direi che è così, nel senso che oggi si parla poi, si dice spesso mondi immersivi, perché ti immergono in un'esperienza, quindi direi che Banjo, Dizzy Banjo crea delle esperienze musicali interne ai mondi per aumentarne quella dimensione un po' di immersività di esperienza. Ecco, abbiamo parlato non a caso di colonna sonora, perché uno degli aspetti che andiamo adesso a raccontare è Machinima, l'ho pronunciato giusto, sì? Giustissimo. Che sono i film fatti con i motori grafici dei videogame. È un fenomeno che in Italia è abbastanza, non è conosciutissimo. Il 9 maggio ci sarà un festival, arriverà a Milano, The Sim Machinima Film Festival, ne parleremo quando saremo un po' più a ridosso della data, ma adesso proviamo a spiegare nella scheda di che cosa stiamo parlando. Il machinima è una nuova tecnica o forma di animazione basata sulla possibilità di girare in real time le scene e gli atti dal vivo in ambienti virtuali. In pratica si usano gli ambienti di videogiochi e mondi virtuali come set, all'interno dei quali, muovendo i personaggi e sfruttando gli ambienti 3D già esistenti, si girano le scene di un video animato. È nato come un gioco tra le community online di videogiocatori, che sostanzialmente riprendevano le proprie partite o facevano gare di velocità di chiusura dei livelli, o creavano situazioni divertenti all'interno degli ambienti di gioco. Poi è diventato qualcosa di più serio, quando si è visto che il girare scene internamente a videogiochi e mondi virtuali poteva diventare una nuova forma di cinema 3D. Negli anni successivi, per creare Machinima, sono nati addirittura dei software dedicati. Uno di questi è MovieStorm, una specie di cassetta per gli attrezzi digitali che ti permette di creare personaggi, sequenze, azioni e girare o montare il tutto senza richiedere competenze tecniche specifiche. Allora, la domanda chiaramente è: c'è una scena italiana di artisti, di persone che inventano, producono film? Tra l'altro poi con Valentina Paggiarin racconteremo invece del film sul mondo di videogiochi, che però è fatto da persone reali, ecco, in carne ed ossa. Allora, esiste una scena italiana ed è fatta di alcuni registi che lavorano appunto utilizzando Second Life o altri mondi virtuali, appunto MovieStorm come nella scheda, per realizzare, diciamo, delle produzioni indipendenti, dei video che poi promuovono sui vari siti, da YouTube oppure con app stessa, e che lo fanno, diciamo, a volte amatorialmente, a volte con, diciamo, invece con professionalità e con degli obiettivi professionali, quindi diciamo di alto livello. La scena del machinima è comunque per definizione una scena internazionale, nel senso che è legata un po' al mondo di internet, e quindi del riutilizzare questi videogiochi o mondi virtuali in un modo completamente imprevisto, e per farne un qualcosa che non era pensato in partenza. Sì, tra l'altro all'inizio erano per lo più brutte copie di video musicali, nel senso che mi ricordo almeno un paio di anni fa, cioè usciva il video di Michael Jackson, non un paio di anni fa, però insomma per intenderci, veniva rifatto in un certo senso con le colonne sonore. Poi è diventato qualcosa di più complesso e di più artistico, forse troppo artistico, mi viene da dire. Sì, in effetti a volte si eccede nel tecnicismo, visto che è una tecnica nuova, a volte l'artista tende un po' a far venire fuori troppo l'aspetto tecnico o sperimentale. È anche vero però che alcuni machinima sono stati portati a dei festival, hanno vinto dei premi e rappresentano a tutti gli effetti una nuova tecnica di animazione, perché un tempo si utilizzava il 3D, si costruivano i personaggi, i movimenti, le azioni. Adesso col machinima si utilizzano cose che esistono già, quindi personaggi di videogiochi, ambienti, e all'interno di questi ambienti si girano le scene come se fosse cinema vero, però virtuale, ed è molto divertente, soprattutto è anche molto veloce e molto economicamente vantaggioso anche per le stesse aziende. Valentina Paggiarin, prima di arrivare a te e di interrogarti, sarà un'interrogazione durissima, ti piacciono questi giochi, anzi questi film fatti con i videogiochi? Ma non ne conosco molti, però conoscevo ad esempio Red vs. Blue, mi sembra, che era una serie ispirata ad Halo, che è diventata una specie di sitcom comica, appunto, ed era abbastanza spassosa. Sì, c'erano, ricordiamo, erano Halo, era un gioco super famoso dove c'erano questi guerrieri spaziali con le maschere, e insomma Red contro Blu erano il tipo con l'armatura blu che insomma discuteva col tipo con l'armatura rossa. L'ho fatta un po' brutta, però era molto più divertente in realtà. Esatto, non era bello da vedere, però era molto ironico e molto furbo, e comunque grazie a Machinima ha potuto farlo, insomma, piuttosto che farlo con dei disegni statici, ad esempio. Mentre tu invece sei autrice, sì. Noi abbiamo già parlato in realtà di voi, mi racconti cosa fai di bello? Non in generale, ma relativo al guerriglia filmmaking. Certo, praticamente con un gruppo di ragazzi italiani e stranieri organizzato da Giacomo Talamini abbiamo girato e prodotto in modo completamente autonomo un film su un videogioco, Metal Gear Solid Philanthropy, che poi abbiamo rilasciato gratuitamente su internet. E diciamo che facciamo guerrilla filmmaking perché non abbiamo finanziamenti per ora e abbiamo girato tutto il film con, diciamo, delle tecnologie piuttosto che degli espedienti per contenere i costi, dimostrando che è possibile produrre un film di 70 minuti senza avere budget hollywoodiani e mantenendo comunque un minimo di qualità. Ecco, ovviamente... Valentina, ti fermo, sì? Perché nella seconda parte della trasmissione andiamo un po' a elencare alcuni dei software che ci possono dare una mano per creare una, perdonatemi la parola, una produzione dal basso di audiovisivo, e poi magari vediamo anche con Casolari di capire come costruire, come realizzare il proprio piccolo film di videogiochi. Nova Lab 24. Rieccoci studio, 16:47. Valentina Paggiarin, stavi per spiegarci insomma il tool, la cassetta degli attrezzi per iniziare o per progettare un film. Sì. Allora, partiamo dal software. Esatto, noi usiamo un software che si chiama Collabtive, che serve per creare una specie di ufficio virtuale e condividere il lavoro che tutte le persone che lavorano al film stanno portando avanti, quindi la sceneggiatura, gli artworks, gli storyboard, i modellini 3D che vengono realizzati, le anteprime delle scene che vengono girate e così via. Chiaramente è un software open source, chiaramente è gratis. Sì, esatto, un software open source, che significa che il codice è a disposizione di chi lo usa e si possono effettuare modifiche a seconda delle proprie esigenze, anche se il software è già configurato per essere operativo, e poi è gratuito. Si possono effettuare donazioni a chi ha fatto il software, ma comunque è a disposizione di tutti ed è multipiattaforma. E questo, diciamo, serve per compensare il fatto che magari non possiamo lavorare dal vivo con tutte le persone che collaborano, certo, al progetto, e quindi crea un ufficio virtuale in cui nessuno si perde niente e rimane uno storico, insomma, di quello che si fa. Per quanto riguarda preproduzione, sceneggiature, storyboard? Esatto, noi usiamo Celtics, che è un altro software open source che permette di scrivere sceneggiature, tradurle, formattarle in modo professionale, chiaro, stamparle, aggiungere gli storyboard, aggiornare la lista, non so, degli attori, delle comparse che sono necessarie nelle diverse scene e condividere la sceneggiatura con persone esterne attraverso anteprime che si possono visualizzare ad esempio da un normale browser come Firefox. E poi hai segnalato anche una piattaforma di blog, in particolare tu mi hai segnalato WordPress per, diciamo, tutta l'attività di marketing, di promozione. Esatto, perché comunque è una fase importante comunicare all'esterno il progetto, magari anche raccogliere energie, risorse, collaboratori, e WordPress fornisce una serie di strumenti illimitata, ovviamente sempre gratuiti e aperti, quindi modificabili a seconda delle proprie esigenze, per comunicare col mondo, creare dei blog, creare dei siti internet e condividere quello che si sta facendo. Ecco, sul fronte invece più tecnologico, senza entrare nel merito, quanto si spende per il fronte più tecnologico, intendo una telecamera e tutto il resto? Quanto bisogna... con, diciamo che con 1.500-2.000 euro al massimo ci si dota di una camera, di una macchina fotografica addirittura, che fa delle riprese così buone che, per dire, anche nel cinema canonico stanno cominciando a usarla, ad esempio. 1.500 euro, beh, tosta però, cioè non... è semiprofessionale, anzi più professionale sì, che sì, però considerato comunque che tendenzialmente di solito chi fa questo, questo, non so, film come facciamo noi per passione cerca comunque di farlo anche per lavoro, è una sorta di investimento, prima per avere una qualità che adesso si ottiene con una camera 1.500 bisogna spendere 100.000 di euro. Certo, certo. Quindi insomma, no, ma infatti non ci lamentiamo, no. Valentina, sì, ci manca. Altro. Volevo fare la stessa domanda a Casolari sul fronte invece di chi volesse realizzare un film con i videogame. Invece in questo caso che serve? Ma allora, innanzitutto serve un attimino di farsi un minimo di cultura di quello che stanno facendo le altre persone, quindi consiglio di dare un'occhiata alla sezione Machinima di CoinUp. Dopodiché è abbastanza semplice, in realtà si tratta di prendere in mano un po' magari giochi o mondi virtuali che si usavano già, tipo The Sims, Second Life, o appunto quel software di cui parlavo, MovieStorm, e tutti questi software o videogiochi sono dotati di una camera interna che ti permette di inquadrare i personaggi e registrare perché le forse scene. Prima non l'abbiamo spiegato bene, non bisogna essere dei programmatori per fare queste riprese, cioè già all'interno di questi mondi schiacciando un bottone si può cominciare a filmare, a posizionare, come avere una piccola telecamera dentro al mondo. Esattamente, infatti la differenza tra il machinima e le altre tecniche di animazione digitale è che non bisogna essere dei tecnici oppure degli esperti di qualche tipo di programmazione, è sufficiente avere qualche idea, un'idea carina. Ecco, e per montare, cioè una volta prese tutte le sequenze? Una volta registrate le sequenze, esistono dei software gratuiti, Windows Movie Maker e tanti altri, che permettono di fare delle forme magari basilari di montaggio, quindi costruire una storia vera e propria. Ovviamente la persona che lo fa con un intento professionale può usare dei software più evoluti, certo. Però si può cominciare con un investimento di 0 euro. Che non è male. Allora, io ricordo che un po' dei software che abbiamo oggi nominato li segnaliamo sul Twitter di Novalab24, li segnaleremo anche su Facebook, un po' li trovate su CoinUp. Io ringrazio Valentina Paggerin per aver partecipato, spero di averti in studio presto. Sì, grazie a voi e volevo dire una cosa, sì? Se posso, che vai. Anche se quello che facciamo noi e quello di cui parla Pierluigi è molto diverso, perché noi ad esempio non usiamo machinima, la sua comunità e quella del guerrilla filmmaking sono molto simili, perché sono comunità fatte da persone che non vogliono più solo ricevere i contenuti, ma vogliono cominciare a produrli, quindi appunto ci si inventa modi nuovi, si sfruttano tecnologie sempre più utili e si riesce a, come dire, a dare indietro qualcosa di quello che abbiamo ricevuto dai videogiochi, dai film. Ed è questo il motivo, ed è per questo che io vi ho invitato oggi e vi ringrazio anche, grazie Pierluigi, grazie, l'appuntamento è domani alle 16.30. Nova Lab 24. Nova Lab 24.